quello deve essere qualche massone per forza, perché cazzo è una cosa, non ho mai visto una cosa del genere qua. Infatti io ho detto a Giovanna, questo è un massone, perché non può essere cazzo che uno si piazza cazzo un cerchio è tipo pallone da calcio e poi una punta sopra e poi delle punte e fianchi, una cosa del genere, solo non mi ricordo bene, ma comunque sia il giorno dopo che scendo giù a Cimito ti faccio una foto, la faccio vedere, la faccio quello massone. Ma non sarà per caso il compasso messo all'interno del cerchio, no? E quello non ci sono massonico, mi pare. O peggio ancora, ci manca solo che mettano l'occhio dentro il non ho mai visto l'occhio dentro il triangolo, un altro simbolo massonico. E più o meno una cosa del genere dovrebbe essere, ma perché faccio la foto che faccio? Sono allora riuscendo giù al cimitero. Sai dove rimane? Dove sono i militari, ti sposti verso la sinistra, scendi giù dritto, visto dove continui a lungo dove c'è il cimitero nuovo in pratica, e c'è questa, ci sono questi cosi tutti in fila, ci sono, hai capito, tutti i nomi conosciuti, Sassa, tutta gente lì, capito? E c'è questa cosa qua, c'è questa palla con questa roba qui. Succede, guarda, io sono rimasto. Ma non ho fatto la foto, la verità, perché non mi andava, se no avrei fatto la foto te l'avrei mandata. Io sono arrivato a fare la foto a quella tomba bella, quella piramide e anche quella di Harrison. L'avevo fatte le foto, un po' con discrezione, perché sai, quasi mi dà il cimitero fotografando due cose, però quelle sono opere d'arte, non sono solo tombe. E poi quella piramide tutta in pietre fatta, è una cosa impressionante, quella è veramente un'opera d'arte, sì. Forse ne aveva parlato anche il giornale La Nuova, no? di certe tombe di Sassari, molto artistiche, a dir poco, capito? Io sono convinti come gli egiziani, gira, che salgono sopra, eccetera, eccetera. Poi, a capelli. E tu che epitaffio sceglieresti sulla tua tomba? Io a me, guarda, quando che però se la porta a prendere in culo, io sai cosa faccio? C'è la casa in campagna, mi faccio mettere a fare il loculo lì e non spreco un cazzo comune, e non me lo posso manco togliere, lo sai, il terreno. E quattro campo, quindi a un certo punto posso fare tutto quanto lì, una tomba posso fare, la tomba tutta di famiglia per tutti. Faccio fare la muratona, una cosa del genere, e sono a posto. E il terreno vale un sacco di soldi. Un domani, quando vorranno comprare il terreno, pagheranno quello che devono pagare. Il discorso è quello. Vabbè, quindi niente epitaffio, da una frase tipo oggi a me, domani a te, oppure ci scrivi, tanto toccherà anche a voi. Cattavi la voce, a pagare il comune, e il comune deve pagare a me, vuol dire per fare il corso, un cimitero. Io me lo sono già fatto, io ci ho fatto 90 metri quadri di casa, a voglia ce ne stanno tombe dentro. A un certo punto, tre entrate e sono a posto io, e mi pagano pure l'affitto, non sono altro. Cappa, male. Comunque vabbè, a parte gli scherzi, io sono più per la cremazione, perché questo spazio sprecato lì, che non sono manco dove mettersi, oppure dopo 30 anni mi pare devi pagare una tassa se non tolgono i resti e li mettono, non ho capito se in loculi più piccoli, e tutto macello. la cremazione, si torna atomi negli atomi, come diceva chi era Lucrezio, torniamo a far parte dell'universo, capito? No, veramente non è che come pensi tu. Una volta finito tutto, che tu sei scheletro, in pratica ti cremano, tanto per essere chiari. E ripeti, carbonato di calcio, col carbonato di calcio ti fanno il sapore, in più diventi cucine per come si dice, no, per le campagne. Dopodiché è una specie di filtro per l'acqua, capito? Per l'acqua inquinata. Quindi in pratica noi stiamo bevendo e mangiando mosti. Tutto lì. È uguale, concime, torni a far parte della terra, mi. È tutta una cosa new age, molto poetica, dai. Bravo, se tu guardi i filmati su YouTube, mi sembra che l'ho visto, hai capito? Me ne sono sceso alle braccia, me ne sono sceso in pratica. Questo americano ha fatto vedere che fine fanno i monti, cioè in pratica li cremano, una volta che li cremano viene diventato carbonato di calcio, dopodiché lo mettono in mezzo all'acqua per purificare l'acqua, perché l'acqua è inquinata, dopodiché una volta che viene usato come fertilizzante, hai capito? Ma tipo maiali, in pratica maiali è la stessa vita cosa, quando sono morti c'è il metodo in mezzo, diventa fertilizzante, eccetera eccetera, adesso così li mettiamo noi tutto lì. Vabbè, alla fine le sostanze organiche di cui siamo fatti noi come gli altri animali. Aspetta un attimo che sto guardando che accidenti c'ha sul telefono, non naviga di nuovo come stamattina, sto facendo, non navigava, oppure aprivo un'applicazione e mi si riavviava sempre, e ormai questo telefono è a brandelli, infatti stavo pensando tra domani e dopodomani di andare a comprarmelo nuovo. Questo a dicembre avrebbe fatto 5 anni, il suo telefono, 5 anni, era caduto un po' di volte, poi però, sai cos'è? Ha cominciato la batteria a gonfiarsi, è anche pericoloso, e quindi si è scollato la parte di dietro, poi cadendosi anche spaccata la parte di dietro, solo il vetro anteriore è intatto, lo sai, nonostante le cadute, ma una volta mi è proprio volato di mano ed è caduto sull'asfalto dalla parte dello schermo, non si è fatto niente, in compenso dietro è tutto aperto, tutto spaccato, batteria gonfia, non funziona più l'audio, non vibra nemmeno, quindi proprio le chiamate non le senti, non le vedi. Infatti io adesso sto usando un telefonino a tasti per telefonare, come una volta, no? Questo lo uso per navigare e vedo che sta comunque peggiorando giorno per giorno, perché sai, entra la polvere, l'umidità, e quindi è destinato a scomparire. Dunque, si è ripagato, abbondantemente si è ripagato. Io di solito ho visto gente che più di 2-3 anni non gli dura il telefono. Lo so, di a me. Ma sai che conviene fare? Andare lì. Qualcuno, mi sembra che se non sbaglio, dove sono andato io. Se prendi il telefono offerta, tu lo porti a casa e sei a posto. Qual è il mio problema? Cioè, tutto, come faccio io? Io come sempre comprato lì, sono andato al comando, sono andato. Quello che c'è vicino a casa, che fa le segne. Vado lì, tanto sei vicino, non è che sei lontano. Vai a piedi, dici mi serve un telefono. Che telefono è? Qual è l'offerta? C'è questo, vedi a questo. E ti prendi quella. Come ho fatto io, tale uguale. Questo era ancora un Huawei, e questo praticamente era sopravvissuto al ban di Trump, l'avevo preso prima, capito, che Trump aveva fatto quel casino con Huawei, con la scusa dello spionaggio cinese, e non si fidavano, avevano messo al bando. E invece adesso voglio provare con uno Xiaomi Redmi, quelli Redmi Note 12 mi piaceva, il Pro è più completo. sa un po' più di processore, un po' più di tutto, è bellino, e che sono delle padelle, guarda, è persino più grande di questo. Se questo è 6 pollici,3, mi pare 6,3 pollici di schermo, questi di adesso sono 6,6, quasi 6,7 pollici, sono delle padelle, a giù mai non ci sta nemmeno nella tasca di jeans. Io di quelli l'ho trovato, quello sei ce l'ho tu, c'ha 4 telecamere, c'ha. Sì, sì, mi pare a tipo, allora l'obiettivo normale, il grandangolare, il macro e uno serve per la messa a fuoco selettiva, e non so cosa, come funziona, per fare lo sfondo sfocatissimo, capito? Come quando sulle macchine fotografiche vecchie aprivi molto il diaframma per staccare il soggetto dallo sfondo, ecco, serve a quello. L'ho trovato vicino a casa tua. Il telefono, e da chi l'avevi preso? Da terra, la verità. Non l'ho preso in negozio, l'ho preso da terra. L'ho trovato, ti ho detto. In mezzo strada, stavo andando, figurati tu, vicino a casa tua cosa c'è? C'è Via Zara, infatti è un parcheggio di Via Zara, l'ho trovato, vuoto, e quello si è dimenticato il telefono in terra. Ah, trovato a terra, ma c'era la SIM o no? Tu hai detto vuoto, in che senso vuoto? La SIM c'era. C'era la SIM, non ti preoccupare. Però è in terra. Ehi, ma tu cosa intendevi con vuoto? Che aveva formattato tutto? Cancellato i file? È stato cancellato tutto, l'ho fatto cancellare tutto, l'ho fatto cancellare, quindi vuole riprogrammato. Ehi, formattato, resettato, le impostazioni in fabbrica, quello che è. Ma funziona, funzionava, amico? Funziona, funziona, ce l'ho qua a casa. Quando vuoi venire, vieni, te lo prendi. No, se aspetti che usi i cellulari, è tutto tracciabile, c'è l'email, c'è una marea di roba, c'è non solo l'email, e lo identificano, se quello per caso gli erano rubato, l'ha perso, e fa denuncia di smarrimento, guai. Adesso non fa più a raccogliere un cellulare, niente, forse è a SIM tanto meno. No, poi lo prendo nuovo, non ne voglio roba raccattata, dai. Vabbè, se lo vuoi, è qua, se lo fa come vuoi, non c'è problema. Non mi cambia niente a me, me lo sai. Quindi, è stato tutto a SIM, è stato tutto a tutto, eccetera, eccetera. È stato mandato, riformatato a zero dalla fabbrica, quindi vuole riprogrammato e basta, non vuole fatto altro. Non lo so, ce l'ho qua, ce l'ho però la carta, ce l'avevo buttata, quindi a un certo punto dove il cato, la pare che accende, il discorso è quello, vuole programmato e basta, non vuole fatto altro. Vabbè, se non lo vuoi, vedi tu, io te lo stavo regalando. No Antone, anzi ti consiglio anche a te di non usarlo nel caso, perché anche se l'hai formattato, il codice email e anche tante altre cose, l'indirizzo MAC, una marea di codici di riconoscimento c'hanno, quindi se quello dovesse aver fatto denuncia denunciando i codici è un casino, no, non è più roba da scherzare, un tipo l'avevano denunciato, un tipo che conoscevo, lui ha trovato una borsetta, no? Forse anche senza documenti, c'era una borsetta con effetti cose da donna, no? E un cellulare, e uno vabbè ha detto mi prendo il cellulare e il resto facciamo il divorzio, e la tipa aveva fatto denuncia di smarrimento con i codici suddetti, tolta la SIM, lui ci aveva messo la sua SIM, niente, rintracciato, denunciato per ricettazione, nemmeno per furto, e dice ma l'ho trovato, non è che l'ho comprato, ma che voglio spiegare i carabinieri poi, no? Loro non sentono ragioni, loro basta che ci facciano le medaglie, non ne frega un cavolo delle. E poi vabbè, è un'imprudenza però da parte sua, io non l'avrei mai preso, usato con la SIM personale, capito? semi non l'ho mai messo io, infatti, la verità si dica. Nel primo momento, se voglio di navetto, comunque sia, è tutto cancellato, non c'è niente, no? Cioè, non è un... hai capito? Finché userà sempre il suo, è un discorso diverso. Poi, a parte tutti i codici che merito tu, e poi devi trovare la scatola, eccetera, eccetera. Sono passati già quasi 8-9 mesi, cazzo, figurati tu. Come cazzo fai? A un certo punto dice, io sono fatto tutto, non è che ti aspetti, cazzo, che io ti porti dopo 9 mesi un telefono, cazzo, che ti sei che hai perso sopra te tu c'è la macchina, no, cazzo. Il coglione sei tu che ci hai messo il telefono sopra, non è che ti hanno rubato, ci ha messo lui il telefono sopra te tu c'è cazzo in terra, basta. È inutile cercare cazzo il codice e cose del genere. E che sei fortunato, cazzo, che dopo poi, cioè, in pratica ti succede come ha fatto mia nipote, che è partita la mattina, è andata a cercare il telefono che si era dimenticato, cazzo, sai dove si era dimenticato? A Nuoro si era dimenticato, gli è caduto in terra a Nuoro, è andata a Nuoro, beh, l'ha trovato lì, col codice di localizzazione è andata, e l'ha trovato lì. E l'ha trovato, sai dove? Da una macchina all'altra, meno male non ha cazzicato neanche la macchina, era in mezzo all'erba. Quindi io non penso che questo cazzo venga a cercare il codice di localizzazione, eccetera, eccetera, dove è il telefono, non ci penso nemmeno, e questo l'ho detto, è il cazzo me la frega, a parte che un telefono vecchio, non è che sia un modello nuovo, hai capito? Quello ti voglio dire. Non stai rubando niente. No, teoricamente no, ma adesso come ti ho fatto il caso di questo conoscente, no? E la ragazza aveva denunciato lo smarrimento del cellulare, no? Aveva smarrito borsa e cellulare, magari era mezza cotta, se l'è dimenticata la borsa, no? Lo smarrimento, però se è vero, questo tipo ha detto che è stato denunciato per ricettazione, poi magari hanno lasciato perdere, però le forze dell'ordine, pur di farci le medaglie, i meriti e tutto, non vedono l'ora, capito, di fare statistica, capito? Quindi a lei non gliel'hanno rubata, lei l'aveva perso, lo volevano annunciare per ricettazione o l'annuncia, non so come sia finita, poi non ho più visto il diretto interessato. Bien, Antonio, caspita, ridendo, scherzando, parlando di tombe, di morti, di cellulari, e cosa abbiamo fatto le 9.05, qua c'è un freddo, arrivano gli spifferi dalla finestra perché per far passare questo cacchio di cavo del baracchino, io ancora non ho bucato il muro, adesso c'è pure sto polistirolo fuori, il cappotto, dovrei fare il buco del muro con la punta da, se il muro è grosso, mi ci vuole la punta da 60, seppure bastami, ci sono muri grossi. Sì, sono case vecchie degli anni 50 e quindi io per far passare il cavo sto lasciando lo spiraglietto nella finestra tra le due ante, no? Cioè, giusto che passi il cavo al centro e devo tenere, sto tenendo la finestra con un'assa di ferro che poggia contro il divano lateralmente, in modo da tenerla chiusa, no? Però il vento ogni tanto sta facendo a bulotto e sento proprio gli spifferi, capito Antonetto? Ho capito, tu devi dirmi solamente, io ti porto le punte, lì è casa tua, ci vuole la punta da 7, da 8, da 5, da 10, quello che è. Non fai altro che fare, intanto non è un trapano come quei trapani che vendono in merda, questo è il trapano vero e proprio, da sanatore, quindi perché il muro te lo fa burro, hai capito? Ho preso anche polistirolo, ti fa un foro unico, non ti fa il foro con l'alone fuori, hai capito? Il discorso è quello. Tu quando sei libero, non c'è un cazzo da fare, lo dici, tu mi dici fai il foro da questa parte, vengo e faccio il foro, ci passi il cavo che devi passare o i cavi che devi passare e sei tranquillo. senti? Minchia, sento le frotte di vento forti, Antonio, ancora no, non si è calmato mica, no? E ti diceva, no, tranquillo, se abbiamo tutto, cioè, vabbè, mia zia c'ha un arsenale di tutta questa roba, Trapani, Bosch, Makita, punte enormi, che manco, addirittura una punta se l'è costruita lei, ha saldato, non so come, ho fatto saldare due punte, perché al massimo mi pare le trovi da 60, e lì ha fatto salire un pezzo aggiuntivo e è arrivata a avere una punta che pare da 80 almeno, 80 centimetri. Vabbè, c'è di tutto, quindi tranquillo, è che io, finché questi muratori non finiscono tutto, io non voglio bucare, non so che vado a tagliare il cavo perché gli passa in mezzo e gli dà intralcio, capito? Come è successo con questi babbei di prima? Beh, scusa, a un certo punto tu dici, allora, mi fate un favore, dici, che cosa? Guardi, dovete passarmi questo cavo da casa, da fuori, direttamente all'interno di casa mia. E basta, solo che mi passate questo cavo qui. Boh, basta, non mi interessa nient'altro. Questo lo fanno loro. C'è bisogno di cattolo di cercare altre persone, scusa. Tanto che stanno facendo quei lavori, non costa niente. A questa casa che è, glielo chiedi alla cioè, no capo condominio, al capo cantiere, 5 minuti ti fa quella foto e ti passa i capi. Dopodiché al limite te li metterà all'interno, non lo so, in modo che sei tranquillo, in modo che non ti toccano più, rimangono sotterrati. Dopodiché quando mettono il cappotto con l'intonaco si è a posto, boh, basta, non si vede niente. E vabbè, ma finché qua devono lavorare, che devono togliere l'intonaco, pitturare tutto, io prima di far passare, di fare il buco nel muro, li voglio fuori dalle scatole, poi già ce l'abbiamo il materiale, è di famiglia, mia zia, abita a piano, ancora qua, cosa vuoi, abita vicino a noi, ha un tiro di schioppo, non è un problema per lì, già c'ha più materiale dei muratori, è una cosa impressionante, tra la casa sua, la casa di campagna, la casa di via Prunicella, c'ha in ogni casa un arsenale di tutto per la ferragnameria, per le trapani, tutto, pialle, tutto, c'ha tutto e di più anche. È una cosa impressionante le cose che sa fare. Meglio così, cosa vuoi ti dica Marco? Sono contento. Se ti fa quel foro, almeno sei tranquillo. Almeno quando fanno poi il cappotto sei tranquillo, hai capito? Se il cavo non te lo toccano più, rimane lì così com'è e sei a posto. Ti metto la rete, l'intonaco e sei tranquillo. Fino a sopra. Ehi, ehi. E così almeno non so con questa finestra, questi spifferi, capito? E qua io sono ancora con la maglietta polo, però caspita, li sto sentendo tutti gli spifferi. Eia. Bien, Antonè, gira, io andrei, mi accendo un po' di TV, perché te sono tutta la sera che sto parlando? No, tutta la sera no, sono entrato tardi, vabbè. E stavate parlando, quando sono passato stavate parlando proprio della Mercury Energy, e c'era anche sotto quel nome, la Mercury, ti ricordi? E tutti uguali poi, e tutte come questa qua che sono io. E vabbè, comunque l'ho già ordinata, sono a posto. E ti do a fine mese l'energy. Io che sto così, a un certo punto stammi a girarmi le palle, ho controllato la Tornado, quella che volevo pigliare io, costa 92 più la spedizione 107, quindi a un certo punto chiedo, sono andato a Tonino e ho detto, Tonino, quanto da voi abbia 27L? E mi ha fatto 70L, oh basta, allora mi piglio quella, non voglio più sapere, io detto, la mia ha detto va male. Quindi c'è dei problemi a un certo punto. Mi sta bene quella lì, come antenna la userò un anno, due anni, non lo so, adesso vedremo. La mantova la sistemo, la metto bene, la sistemo bene, la faccio nuova e poi si vedrà cosa fare, non lo so. Sì, ma l'ultima che hai, sai perché? Io l'avevo pagata 90, quando ero andato io, siccome, sì, tu dici c'era anche online, no, molti hanno detto, perché non hai preso online? Sì, online costa 60 o 65 più 15 o 20 di spedizione, poi magari se vai a controllare manca una vite, manca un radiale, che ne so, andare a rispedire dietro, invece la GPC me l'ha proprio fatta vedere sul momento, anche mi pare aveva aperto la scatola, l'ha fatto vedere la bobina, tutto. Io l'ho presa subito, 90 euro, ero piazzata, 70 è già un buon prezzo, ha detto che è l'ultima, così è. A proposito, Antonio, hai visto come è ridotto il negozio però? Se tu vedi questi vetri da fuori, prima le scatole erano bene o male in basso, no? Come entravi, le vedi ai lati, ma adesso le scatole stanno arrivando al soffitto, cioè tu come entri all'ingresso vedi le vetrate, tutto scatoloni, è impressionante, peccato però, peccato. Già lo so, dillo a me. 70 a me mi ha detto, comunque. 70. E infatti ho detto, guarda, sono di giovedì, gli ho detto. E poi gli ho detto, guarda, purtroppo ho pagato una cosa, un'altra ancora, quindi a un certo punto sono rimasto quasi nulla. Comunque sì, detto, lasciamola da parte, io che tu prima di fine mese ho detto, prima del 27 ti do i soldi, gli ho detto, siamo a posto, gli ho detto, tutti e due. Lo sai, detto, come sono fatto io, quindi ho detto, me la metti da parte e non la do a nessuno. Tutto lì. Cazzo, mi ha fatto pagare 7 euro, cazzo, come si chiama? Il cavo, G58, con due PL, hai capito? Quindi a un certo punto, gli ho detto stamattina, gli ho detto, ci siamo trovati a, come si chiama, in negozio, cosa dovevo fare? A un certo punto. Io mi ricordo ancora quando c'era quell'altro ragazzo anni fa e lì lavoravano meglio perché almeno o ti serviva uno o ti serviva l'altro, poi era più ordinato, però sa cos'è, forse stava meglio anche lui, il titolare, no? Io avevo capito che avevamo un qualcosa, quindi si stava trascurando, vabbè, alla fine quando non è poi più, è un po' trascuri tutto. Peccato, vabbè. Perché poi quando chiuderà quello non sa sai cosa c'è, solo Fusaro, perché Melchioni aveva fatto la fine che aveva fatto, no? E chi altri c'era? Grassi non esiste più, vabbè, che però il roba di baracchino non teneva neanche più, anzi no, voglio dire, magari c'è ancora, ma la roba di baracchino non ne teneva più, ero passato anni fa. E poi vabbè, GBC appunto pronto, secondo me lo vedremo chiuso, c'è Fusaro, poi vabbè, ti parlo di tanti anni fa, c'erano anche quelli, Adriano Via Lumberto che aveva i baracchini, le antenne, ma ci sto parlando primi anni 80, dove io avevo preso il multimo dei tre, che poi avevo venduto a te, avevo preso la prima Grand Plane, la prima antenna del tetto, no? Nell'84, minchia, quanti anni, e insomma dai, vabbè, quelli sono troppi anni, vabbè, però gli altri, insomma, alla fine poca roba ci è rimasta a Sassari, che tratta anche roba di ricetrasmettitori, ecco. Vabbè, Mario M2 vendeva più che altro apparati, Kenwood, qualche baracchino anche vendeva, però non vendeva 6 cavi, PL, non credo almeno. Infatti, siccome lo voglio fare la fine un'altra volta con quel baracchino famoso che sto prendendo, quindi dovrei dire che lo anticipo, così lo blocco con l'antenna, non se qualcuno faccia il furbo, hai capito? Bene. Me la metto in culo, quindi a un certo punto voglio fare la fine di quello di come la volta di quello di Signori, a un certo punto dovete lo anticipo di dopo, così ce l'ha in culo, c'era un bel po' di gente. Ah, ma chi? Franco Bianco, che il diavolo se lo porti. Bravo, sì, bravo. Se l'avessi saputo, cazzo, buongiorno, sta tranquillo. Devo ringraziare a... quella maglia è andata male, allora. L'ho bestemmiato io, cazzo. Mi si è incendiato quel baracchino. Oh, pure. E va, si è comprato veramente male. E non solo con te, a quanto ho capito, con un bel di gente. E ha fatto la fine che ha fatto. E appunto per quello, quindi. Adesso domani, intanto per sicurezza, siccome la Mantova, cioè la Mantova, la BA 27 Stelle costa 60 euro, no, costa 70 viene con la spedizione, quindi a un certo punto gli do la metà e la blocco domani mattina, così almeno sono più sicuro, non so che poi me la mettiamo in culo a un certo punto. La BA 27 Stelle, poi si vedrà. Già lo sai che a un certo punto meglio è prevedere che essere incolato. Sì, Antonio, adesso che l'hai detto al baracchino che è l'ultima rimasta, si va qualche CB domani e se la prende e se la tiene di scorta, o chi si deve fare un'installazione ex novo, vedrai che non ne trovi tu di antenna da GBC. Ah, ho parlato con Tonino, già lo sa che me la metterà a parte, non è dai, già lo sa anche lui. Sono tranquillo con Tonino, hai capito, non è un tipo che gira bandiera, quindi a un certo punto lo anticipo domani mattina e me la metto da parte, perché, anche perché l'antenna costa 60 costa, se guardo su internet, più 10 di spedizione, quindi ti viene 70 qualcosa, quindi a un certo punto la sto pagando poco, non è che sta pagando molto. Quindi mi sta bene così, è un'antenna provvisoria, mi non hai capito, il discorso è quello, devo sistemarmi la Mantova, quindi per la Mantova adesso la pulisco bene, sì. Me l'ha chiesta Torino addirittura, figurati tu. Cosa ti volevo dire, Antonè, a proposito dell'antenna, vabbè, se gli dai l'anticipo, però sai, se non dovessi dargli anticipo e gli dici, hai l'antico giovedì e poi dici, giovedì non ho potuto, non c'ho i soldi, magari rimani ancora, alla fine si buia e ce la vende, però se gli dai l'anticipo domani magari te la tiene, dai, e beh, ci mancherebbe. Cosa ti volevo dire di antenne? C'è qualcosa che mi sfugge, dicevo delle Venom, che la Venom sostanzialmente grosso modo è lo stesso schema, a parte vabbè i radiali corti, che io non so dei radiali così corti a cosa servano, c'è piano di massa, ce n'è poco e niente, vabbè. Fatto sta che funziona, nel suo piccolo funziona, stazionarie inesistenti, perché mi ricordo che è stata collaudata la mia Venom dal Profeta, e stazionarie non ne avevi, cioè senza stare a zuffarsi come la Ringo, accorciare, che non riusciva a trovare il punto di risonanza, lì come hai messo proprio le fascette su quel segno fatto a pennarello e glielo fanno di fabbrica, perfette, stazionarie perfette, però tu sai che le stazionarie poi non sono tutto, no? Una cosa sono le stazionarie uno sta uno, e una cosa è il rendimento dell'antenna, quindi la Venom rende già meno rispetto a una mezz'onda a un'altra mezz'onda di altre marche, rispetto a una 5 ottavi di altre marche. Però la cosa che non perdono alla Venom è quella bobina veramente demenziale, cioè non puoi mettere un filettino sottilissimo attorno, sembra l'anima del nastro adesivo, del nastro isolante, no? Un tubicino di cartone avvolto lì, sì, funziona ma è una schifezza, era meglio farla allora come la Energy, che c'è una vera bobina bella con uno spessore migliore. Il rame, insomma, c'è capito, Antonio, cosa intendo, e avevo mandato le foto all'epoca, ma quella bobina della Venom fa veramente ridere, lo so anch'io, infatti, non è quello che sto dicendo. C'è la Tornado, c'è, ti ho detto, la Tornado News si chiama. Se tu la guardi, viene intorno ai 90 euro, più spese di spedizione 110. Stavo prendendo quella, la stavo ordinando ieri, guarda la verità, la stavo ordinando ieri, ed è 7 metri di lunghezza, 7 metri di stilo, 7 metri di radiali. Il discorso è quello, solo che in pratica in questo momento qui non ce la faccio, perché non mi bastano i soldi, capito? Ho pagato stamattina un sacco di dinero in tutto, in debiti che c'ho, luce, acqua, eccetera, eccetera, capito? Quindi a un certo punto ho dovuto lasciar perdere. Adesso io il prossimo mese me la ordino, hai capito? Quell'antenna lì me la ordino, me la faccio mandare direttamente via internet. Cosa da una cosa all'altra 102 euro costa, 7 metri di lunghezza, di stilo di radiale, si chiama la Tornado News si chiama. Te l'ho fatta anche vedere l'altra volta, tu mi hai detto no, non è quella, è l'altra, no, sono due cose diverse, hai capito? Una è 5 ottavi, l'altra è 7 ottavi, il discorso è quella. Il problema è che adesso in questo momento qui non me lo posso permettere, se avessi avuto più entrate, tanto quanto, ma siccome purtroppo mi devo accontentare di quello che ho, cosa devo fare? Lo sai che ormai Simona sta fumando, quindi a un certo punto qui dice da comprare il pacchetto delle sigarette a lei, sono 5 euro al giorno, cosa del genere. So, questo lei l'aveva presa. Ehi, vabbè, a parte il fattore economico delle sigarette, ma Simona non l'è bastato, cioè continua a fumare. E come mio zio, c'ha l'enfisema, continua a fumare, sta sempre frazzando con queste cartine, questo tabacco sfuso. Non la capiscono, non lo so, forse dipendenza alla nicotina sarà, vabbè è ovvio, no? Che fumatore è assuefatto alla nicotina, ma boh. Bene non fa, come il bere troppo, bene non fa, tutti qui si fanno male. E poi vabbè, ancora adesso per terminare il discorso Venom, no, io sono sempre da parte, quella lì è stata collaudata, va bene, però quella bobina, se usi i watt normali ancora va bene, però quando cominci a caricarli di watt il filo è troppo sottile, comincia a sbarellare l'antenna, credo che vadano le stazionarie, a salire le stazionarie troppo, capito? È un po', è critica quella costruzione lì. Va bene se usi i watt normali dell'apparato come li sto usando io adesso. Credo che qualcuno abbia dato problemi proprio per i watt. Come mettevi i watt l'antenna cominciava a lavorare male o a dare stazionari, una cosa del genere l'avevo sentito, però non mi ricordo chi era. Beh, quello sì, ci sono parecchie antenne che resistono un sacco di watt e ci sono parecchie antenne che invece non resistono, capito? Io mi ricordo da loro le Super Regibus, quanto posso dire, le Firenze 2, erano fatte bene quelle antenne, le KF4 che erano fatte bene, ti potevi caricare qualsiasi cosa, non se ne scendevano manco morte, e duravo 10-20 anni, cosa del genere, adesso non la c'è più, se dovessi trovare una cosa del genere, adesso te la fanno pagare in oro quell'antenna lì, capito? Perché sono fatte come Dio comanda, hai capito? Il discorso è quello, col rame grosso, fatte bene, tutto, lo stilo è fatto in alluminio, non alluminio di cazzo come quello che vendo adesso, no, alluminio quello più grosso, in pratica tu incassi uno all'altro, che ci vuoi il suo bambino che potrebbe cazzo togliere i cazzi pizzi, veramente grosso, che sarà 3, 4, 5, forse 5, 6 mm, adesso non mi ricordo, ma comunque sia, erano belle antenne quelle, purtroppo hanno fallito troppo in fretta quel tipo di ditte, capito? Chi ce l'ha, se la tiene, purtroppo grande la vita. Quello è. Se avevi avuto una Firenze 2, sta tranquillo. Non sei stato. L'avrei piazzata qua su, l'avrei piazzata, non l'avrei più staccata. Sarebbe durata 50 anni come minimo. E quella leggeva un kilowatt, quasi 2 kilowatt leggeva come antenna. C'era la bobina cazzo grossa, quanto, come si chiama? Non te posso dire, le. Non so, di diametro da un e mezzo, due di diametro, cazzo, di rame, la metà era grossa, ma pieno, alluminio pieno, non alluminio cazzo vuoto, alluminio pieno era, cazzo. A voglia di sistema, cazzo, quello di carica di lineare, ma fatta bene. Purtroppo sono durate poco, cazzo, quel periodo mi hanno venduto parecchie, non costavano neanche molto la verità, però sono sparite, cazzo, la circolazione. Purtroppo è così. Chi ce l'ha, anzi, che forse ce l'ha magari in soffitta per sbaglio, se le tiene, perché se le tiene quelle antenne conservate. Perché le pagherebbero in oro, le pagherebbero 250 euro, come minimo le pagherebbero 250 euro lunga. Sì, poi credo che comunque sia la Venom il gradino più basso come alluminio, cioè, sembra persino più fragile o più sottile di, o più leggero di, comunque di quella della mia, della Energy. Cioè, quelle sezioni della Venom, gira gira, se le metti sull'acqua galleggiano, adesso detta così, no, ma già rende l'idea. Adesso guarda, se voi antenne, vabbè, uno prende le modelle ammiraglie della Sirio, tipo quella grossa, la 5 ottavi, quella forse a livello di Mantova, sperando che non abbia introdotto materiali troppo teneri o pezzi di plastica come vedo certe volte, vabbè, se no uno va sulle grazioli, cioè tu vuoi una buona mezz'onda che ti dura 40 anni, pigli la grazioli, cioè lì alluminio, poi vabbè, ma l'alluminio sarà un alluminio buono, poi bello surdimensionato, grosso, spesso, il mollone, bobine, quello che è, tutto bello generosamente dimensionato, bullerinia in inox, per dire, tu la mezz'onda grazioli la paghi un capitale, la paghi quanto una 5 ottavi normale, no? Anzi, forse più di una Mantova la paghi, se ci fosse ancora nuova la Mantova, però ti dura 40 anni, se gli fai la giusta anche manutenzione, magari periodicamente, e così anche quella 5 ottavi grazioli è spettacolare, quella è una signora antenna con la maiuscola. E poi se vuoi proprio accedere, che c'è soldi da spendere, che c'hai traliccio, tiranti, quello che vuoi, ti metti la, aspetta come si chiama, quell'altra grazioli, praticamente è una 5 ottavi di un quarto d'onda messo in cima, e lì è, cioè, lì è proprio il top del top, però è pesante, quella va tirantata e tutto, però quello che sia, credo sia il top come antenna, secondo me è anche superiore a quella 6 ottavi o 7 ottavi, quella senza radiali, di quella marca che aveva, mannaggia, come si chiama quella marca lì? Vabbè, capito cosa intendo, no? È una cosa anche recente che è uscita, che è stata insomma utilizzata anche a Sassari, anche perché quella, essendo una G-Poll, questa 7 ottavi o 6 ottavi che non mi ricordo, e c'è la parte che irradia è quella che è oltre quelle, come spiegarti, sono cotto, ma Antoni, c'è la parte irradia, sono i 5 metri e mezzo che ci sono più su, lì dove c'è quell'elemento parallelo che fa la subliteratura, risonanza, quello che è, adesso non te lo so spiegare così a parole povere, c'è quello irradia e sono i 5,50 oltre quell'elemento parallelo, capito? Secondo me quelli invece, quella grazione, 5 ottavi per un quarto è ancora superiore, come i decibel, come tutto, come ricezione, come tutto. Guarda, qualche radiatore ha fatto anche prove, cioè proprio chi ha una campagna grande ha messo quella da una parte e quella dall'altra, e poi ha chiesto i controlli a più persone, credo che la Grazioli ormai la spunti su tutte, proprio perché c'è il guadagno della 5 ottavi più il guadagno del quarto d'onda, capito? Meglio la Super 16 e la Super 9, non ti preoccupare. Aspetta 2 minuti e sarei vado su. E Antonio, poi ti dico l'altro, cioè, vabbè, dopo. Antonè? Sono in bagno, me lo prendi addosso. Dove eravamo rimasti, Antonè? Ah, della Grazioli stavo dicendo, No, che quella 7 ottavi, quell'altra, quella G-Poly invece c'è quella prima parte di sotto di 2,375 serve praticamente per l'accordo, lì non irradia al di sopra, non la parte finale. Mentre quella Grazioli, quella 5 ottavi più un quarto d'onda, come che si dice, messa in fase, no, così si dice, irradia tutta, quindi deve essere notevole. Non so se a Sassari ce l'abbia qualcuno o dintorni, quella doppia, 5 ottavi più un quarto. Forse hanno quella normale, la Grazioli 5 ottavi, che c'è comunque una bella bestia, bei materiali, poi c'è un saccaccio di roba da assemblare, credo che ti diano la bulloneria inox, cioè stai pagando di più, però è roba che ti dura di più. E ho capito. Allora, tornato, antenna, giusto tornato, 115 euro, su eBay, che non serve un cazzo, questa lo sa una cosa, quello di Muros, poi c'era Silio News, tornato 50-60 antenna, 70 euro, e non serve un cazzo lo stesso, e c'è quella che voglio chiare io, e aspetta. Tornato, sistemi 10 AM, guadagno 1,2, 3, DB, larghezza di banda, c'è da 1,3, rosso, 1,3, potente massima. Io tornato, 27,59, verticale. Non è questa. C'è quella bobina di cazzo che non serve a niente. Silvio, tornato. Eccola qui, e beh. CB, come si chiama? Home base antenna. Tornato 27, onda 5 ottavi. Viene 92,36. Vende Silvio. Allora, condivido. La metto su. Che la posso mettere? Vabbè, il coso tuo non ce l'ho, in questo momento non ce l'ho, quindi la metto su Facebook. Sezione notizie, così la vedi anche tu. Pubblico. Ecco fatto, pubblicato, così la vedi anche tu. Ma adesso mi sento di dire una cosa che mi sono dimenticato. Sempre relativa alle antenne, cos'era? Portasse la miseria. Vabbè. Ah! Si chiama Omen, base antenna, 927, onda 5 ottavi. Sì, ma me la ricordo, su eBay, no? Certo, su eBay, bravo. 92,36 centesimi, più, vabbè, tasse e cose del genere, spedizione, 106 e qualche cosa viene. Hai capito? Manda a casa. È una base di 26, 28 MHz, 27, performante, eccetera, non lo so, poi si vedrà. Ehi, Antonio, ti dicevo, per le antenne, quando tu vedi la Energy 60 euro, 10 euro, col cavolo 10 euro, io ho visto che molti venditori ti chiedono almeno 15 euro per spedire, tu conta che il cartone della Energy, la scatola, la confezione, è lungo 1,5 metri, è tantissimo, anche se è sottile, è un bel come misure, ti chiedono 15 euro, alcuni addirittura 20 euro per spedirti un'antenna CB, capito? Un'antenna, ecco, un'antenna base, ti chiedono anche 20 euro, dipende chi trovi. Addirittura c'è una qui che c'è scritto Sirio New Tornado, le immagini potrebbero essere soggette, è bella per la breccia, 1, 2, 3, 8 radiali, e lo stilo è lungo, quindi te lo condivido, aspetta, se c'è una notizia, così la vedi anche tu, e la vedi, ecco fatto, pubblico. Perfetto, oggi deve tutti e due, te le guardi tutti e due su Facebook. Ehi, adesso le guardo, vediamo, aspetta, vai, bevo, no Amazon. E poi in realtà le conosco già, però ogni tanto mi vado a spolverare i cosi. Ascolta, come le vedi la LEM da base, tipo Super LEM, quelle 5 ottavi vieni dalla LEM, come materiale, tipo mantova, no, dovrebbe essere, sono grosse e sono pesanti come antenne. Sì, sono belle come antenne, ma non posso spendere 250 euro per le mie antenne, ma sto scherzando, non esiste, no, non spendo io una cosa del genere, 250 euro le antenne, che cazzo. Non fa, capito? Io non posso permettermi per il momento una cosa del genere, non sono ricco, sfondato, eccetera, eccetera, sono, mi avrei comprato al limite, a posto di quello mi avrei comprato una bella antenna dei cametri, che cazzo che faccia 10, 20, 40, 80 e va a fanculo. Bella grossa, eccetera, eccetera, e avrei finito i 9.000 palle, tanto per dire, tanto c'ho il 140, l'avevo usata per quel motivo lì, capito? Una bella verticale, e va per culo. Sì, no, ma infatti anch'io, io mi ero messo dei limiti, cioè io non volevo spendere lo stesso 150 euro per l'antenna o 130 tipo la mano, poi volevo roba leggera, in modo da non dirantare, l'ho sempre detto questo, e ho detto, io questo c'ho, ho detto 100 euro, 100 euro massimo, più di quello non spendo. E quindi poi da GBC me l'ha fatta vedere sul momento, come l'ha fatta dentro, ho detto vabbè proviamo, certo quella copribobina in plastica trasparente secondo me si spacca, magari è già rotto il mio, forse pure io abbia anche la bobina nuda mia vista, è bella ossidata, non lo so, quello non so, bisognerebbe salire e dare un'occhiata. No, stavo guardando un'altra antenna, Sirio 2016, ecco quella dovrebbe essere, dunque no, allora la Sirio 2016 ha il lampioncino, anche lì c'hai anzi un bel lampione di plastica dove dentro vedi la bobina bella grossa. Però penso che poi il lampione appena si sfascia quello si spacca entro l'umidità, a meno che uno proprio non lo faccia stagno tutto, no? Cioè non vedi più la bobina a vista mattina futti. E intanto mi Sirio 2016, no? 16 radiali, quindi a voglia, 165 euro più 14,90 di spedizione. E vabbè, costano chi più che meno. Uno ripiega sull'Energy perché, o sulla Sirio, se la Sirio che praticamente è uguale, in più ti dà dei manicotti la Sirio, si chiama GPE, Sirio GPE è come la Energy, in più ti dà dei manicotti da mettere tra uno stile e l'altro, no? Per non far entrare l'umidità, però in più sopra la manicotto di plastica a parte te la rinforza pure, ci metti l'autoagglomerante e viene un bijou di lavoro, capito? Mamma mia questo vento, guarda che oggi è veramente fastidioso, anche perché mi sto beccando gli spifferi. Poi c'è questa marcata Gap mezz'onda, è cos'è una Venom, credo sia proprio una Venom. C'è l'antenne, vabbè, certo sono venditori esteri, Sirio GPV 5 ottavi, qua la chiamano GPV, non so perché. 75 euro, spedizione gratuita. Ultimo disponibile, oh, tutti ultimo disponibile. Cazzo, Sirio Masulli sono rimasti. No, ma stavo notando, Antonio, stavo notando che mi sale lo smitter di più. Come mai? Anziché 9,5 è sul 9,20. Ah, ma qua io, cioè, se non me ne accorto di niente, io sono attaccatomi, non me ne accorto, e sai perché? Perché appena sono entrato stavano chiamando da Val d'Aosta, da Verona, io per provare ad arrivare, e l'ho dimenticato attaccato, non mi avete detto niente. E cosa vuoi che mi cammini, adesso io sono tranquilla, qui. Dico, c'ho un euro stazionario, eppure andrò tanto bene adesso. Non ho problemi più di stacco o cosa del genere, ma sto andando bene. Mi, adesso, vedi, adesso, siccome io qua non lo vedo, il LED, non lo vedo, perché è incassato in questo vano, no, sotto questa specie di... Va piovendo, stammi? Si sente. E cosa ti volevo dire? Siccome in casa non vedevo il LED, adesso un po' è sceso, però naturalmente siccome ho interposto la farina, la scarpetta, un po' lo smitter varia. E vabbè, adesso non decudo, dai, già capito. Capito. Io non sento il vento, ti credo, non sento. Uno devo stazionare adesso, figurati. Ma come facciamo uno? Quando abbiamo il braccio c'è uno e uno. Però siccome il vento sta piegando verso la parte, evidentemente che sto facendo, che sta facendo male, sarei tranquilla. Ehi, aspetta che, Antonio, facciamo così, siccome mamma mi sta chiamando anche per la cena e qua si è messa a piovere e ho paura che comunque arrivino fulmini tutti, io chiuderei, dai, per oggi, già, cioè, non ci sentiamo un po', per oggi abbiamo attaccato al bottone un bel po', dai, ci sentiremo anche in condizioni meteo migliori, Antonio, ok? Vabbè, ci vediamo domani sera, dai, adesso io ovviamente devo fare le visite mediche, quindi a un certo punto rientrerò verso la luna, a un certo punto. Quindi ci sentiamo domani, dai. Quando rientro domani sera ci sentiamo, ok? Ehi, ascolta, per finire, ti volevo dire, se tu... per esempio, devo alzare un po' il volume, dovresti aumentare se puoi un po' la modulazione, in modo che, perché è un po' risicata, dai, forse è più bassa anche della mia, ho dovuto alzare un pochino un bel po' il volume, guarda che siamo soli, ma... Ok, Antone, tu sei, come sei liscio adesso, sei 9 più 20 esattamente, guarda me, 1, 2, 3, 4, 5. Liscio con microfono amplificato, quello delle Connex 4000, guarda un po', 2, 3, 4, 5, 6, adesso la manetta. Ascolti, sì. Sì, aspetta, sono qua. Antone, sì, comunque confermo, 9 più 20 spaccato a questo smitter che ovviamente ha il 9 più 30 massimo. Ok, poi ci sentiamo in migliori occasioni meteo, condizioni meteo. Ciao Antone, buonanotte. Saluta Simone. Ehi, mi sta arrivando la tempesta a me. La fognacqua e il vento. Ci vediamo domani, là. Adesso chiudo tutto, ci vediamo domani. Eia, io stacco pure il PL, per carità. Ciao ciao. Eia, ciao ciao.